In quel tempo Gesù parlò dicendo: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare senza tralasciare quelle, guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Vai, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere perché anche l'esterno diventi pulito. Gesù continua anche oggi a dire questi guai verso gli scribi e farisei, ma ricordiamoci che scribi e farisei siamo anche noi, tutte le volte che appunto pensiamo in un modo e agiamo in un altro, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Tutte le volte in cui c'è discrepanza tra il dire e il fare, tra l'apparire e l'essere. E quindi anche noi in questo caso siamo considerati da Gesù scribi e farisei. Quando Gesù dice guai a voi, non è una maledizione, ma è un far capire all'uomo a che cosa sta, è un ammonimento per far capire all'uomo a che cosa va incontro se appunto continua a coltivare questa dicotomia tra il dire e il fare, tra l'essere e l'apparire. E dice qui Gesù si riferisce a due comportamenti ben precisi. Uno è quello del pagamento delle decime. Ecco, gli ebrei avevano un modo molto preciso di calcolare la decima e quindi la decima parte del grano, del mosto e dell'olio doveva essere consegnata per il mantenimento del tempio e del culto. E poi avevano anche regole precise per la purezza legale. Questi sono i due ambiti che Gesù oggi prende in considerazione e ci fa capire che magari possiamo essere ligi anche noi a tante regole esterne, ad esempio pagare le tasse, essere molto precisi nella denuncia dei redditi, ma poi trattare male il marocchino che magari, o il vocomprà che magari ci si avvicina, oppure ad esempio possiamo essere molto precisi nell'esercitare il nostro dovere al lavoro, però poi magari trattiamo male le persone con le quali viviamo, oppure possiamo essere magari anche precisi nelle regole così, per esempio fare la fila alla posta, mai tagliare la fila, oppure essere molto rispettosi di tutte queste regole di Galateo, e però poi andare, non essere fedeli nell'amicizia, non avere misericordia per chi è più debole di noi e non esercitare la giustizia come dovremmo. E quindi Gesù ci esorta proprio a questa coerenza anche oggi, a capire che anche noi possiamo essere scribi e farisei. E questi guai non ce li dice appunto per maledirci, ma perché ci vuole appunto ammonire. Allora vediamo oggi di concentrarci, di vedere dov'è la nostra discrepanza, quando c'è sproporzione. E quando appunto vado magari sopra, cioè sono rispettoso di regole poco importanti e passo sopra quelle veramente importanti. E ricordiamoci che la Sacra Scrittura non è che ci cambia semplicemente se la leggiamo, ma se la preghiamo. Allora vi invito e invito anche me stessa a ripetere queste espressioni che Gesù esprime oggi in questo Vangelo, ma per pregarle, per farle nostre, per dire al Signore: Signore, io voglio essere coerente, voglio apparire quella che veramente sono e voglio essere come vorrei apparire. Ecco, l'impegno nostro dovrebbe essere quello di e cercare di essere come voglio apparire e non cercare di apparire come e non cercare di apparire diversamente da come sono. Buona giornata.